Europa 24. Ben ritrovati dalla redazione da Valeria De Rosa. In primo piano lo scandalo Datagate. Poco fa il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che condanna con fermezza lo spionaggio su ambasciate e istituzioni europee. Se le notizie trapelate fino a questo momento fossero confermate, si tratterebbe di una grave violazione della Convenzione di Vienna. Questo in sostanza quanto sostengono gli europarlamentari. Strasburgo ha chiesto immediate spiegazioni a Stati Uniti e Gran Bretagna e ha incaricato due commissioni di indagare sul caso. Intanto, secondo quanto scrive Le Monde, anche la Francia avrebbe il suo dispositivo di spionaggio simile al sistema americano. Il Parlamento europeo non ha però chiesto alcun rinvio ai colloqui con gli Stati Uniti per l'area di libero scambio e infatti, secondo fonti vicine ai negoziati, il primo round per l'accordo commerciale dovrebbe svolgersi da lunedì 8 fino a venerdì 12 luglio a Washington. Tra pochissimo la Banca Centrale Europea comunicherà la decisione sul costo del denaro. È più che probabile che il Consiglio Direttivo dell'Eurotower, tuttora in corso, proceda a una conferma sui tassi di interesse, fermi allo 0,5%. Dopo il varo di 9 miliardi di euro per il contrasto alla disoccupazione giovanile, nel corso dell'ultimo vertice europeo, i ministri del lavoro e i leader comunitari si sono confrontati a Berlino sull'emergenza occupazione. Unser Ziel ist doch vollkommen klar, dass die große, hohe Jugendarbeitslosigkeit jetzt. Vogliamo far scendere l'elevato numero di giovani disoccupati, così la cancelliera tedesca Angela Merkel ha concluso ieri a Berlino il summit dei leader e dei ministri europei del lavoro dedicato proprio alla lotta alla disoccupazione giovanile. Nelle conclusioni i ministri hanno scritto che l'immenso problema della disoccupazione dei giovani richiede azioni urgenti e determinate a livello nazionale ed europeo. Servono iniziative innovative che abbiano rapidi e misurabili risultati nel sostenere i giovani. Nel documento si sottolineano le direttrici delle principali linee d'azione che passano per la garanzia per i giovani, l'esame e lo scambio di esperienze sulle misure che abbiano maggiore impatto a breve termine per ridurre la disoccupazione, la mobilità dei giovani in cerca di lavoro, il miglioramento dei servizi per l'occupazione e i sistemi di formazione, infine il miglior utilizzo dei fondi disponibili. Il premier Enrico Letta è tornato a spingere sul ruolo della Banca Europea per gli investimenti. La BEI deve finanziare le PMI, ha ribadito Letta. Il presidente europeo Van Rompuy ha calcato invece la mano su strategie da realizzare nell'immediato. Il prossimo vertice europeo sul lavoro si terrà in Francia. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La crisi economica e le politiche di austerità hanno alimentato l'euroscetticismo? Sì, ma per combatterlo ci vuole ancora più Europa, secondo Lucio Livi, presidente del Movimento Federalista Europeo. Lo sentiamo al microfono di Laura Bettini. Le grandi crisi sono anche grandi occasioni per andare avanti. L'Europa oggi, fino ad ora, ha progredito secondo la velocità del vagone più lento dell'Europa, cioè ha dovuto far fronte ai veti e alle resistenze della Gran Bretagna. Oggi però i governi hanno deciso di imboccare una nuova strada, quando di fronte alla crisi hanno deciso di approvare due trattati internazionali al di fuori delle istituzioni europee, il cosiddetto Fiscal Compact e il Fondo Salva Stati. È un atto di rottura con la Gran Bretagna, con altri paesi che hanno rallentato il processo di unificazione europea. Mi pare però che le società europee, penso ad esempio al successo del 5 Stelle in Italia, nel frattempo abbiano preso un'altra piega ancora, non europeista. Sì, il nazionalismo ritorna. In Italia oggi nel Parlamento c'è una maggioranza di forze euroscettiche. Sono gruppi politici inconsapevoli della posta in gioco, per certi aspetti irresponsabili. E per fortuna abbiamo dei leader politici che sanno dove bisogna andare, però la situazione è a rischio. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo la conferenza internazionale promossa dall'ENOP, European Network of Political Foundation, dal titolo Definire la crisi, impulsi per una cittadinanza europea attiva. Lunedì 8 luglio, presso la sede del Parlamento europeo in Italia, in via 4 novembre 149 a Roma, dalle ore 16 sono previsti interventi del Premier Enrico Letta, del Ministro degli Affari Europei Moavero Milanesi, del Ministro delle Riforme Gaetano Quagliarello e del Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Lucio Battistotti. Tra i temi toccati, il rischio dell'antieuropeismo, l'occupazione giovanile e la partecipazione attiva dei cittadini. Per le informazioni e per conoscere il programma completo del convegno, www.enop.eu. Ed è tutto per questo appuntamento con Europa 24. A tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.